24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, all'inglese, con doppio turno, alla francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca! E via, via pure! 100! Ve lo ricordate? 100! È la centesima settimana decisiva per la riforma elettorale e anche per l'abolizione delle province. Ho portato la torta, No, mi guardano così, non ci vai a vedere sulla mia scrivania. Ho portato una crostata ai frutti di bosco. Peter Bescapè, alpino. Ma no, c'ho anche le candeline. Vai a fargli una foto se non ci credi. Lorenzo Nespoli, anche tu che non ci credi. Beh, andate a vedere. Ho portato la torta perché bisogna festeggiare come si deve. È una crostata ai frutti di bosco, una roba così, insomma, con le candeline, 100. Dopo facciamo una foto, la mettiamo sul nostro sito radio24.it, giuro, c'è la torta, 100 settimane! Via, via pure! Abbassare! Non te regge più! Abbassare! Non te regge più! Abbassare con le canzoni senza fatti e soluzioni, la castità non te regge più, la verginità non te regge più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni non te regge più, ladri di lei non scenderà mai in politica? Io sono già in politica. Questa manifestazione candiderà mai. È una manifestazione. Non si candiderà mai. Io faccio il segretario della FIOM per altri 3 anni o questo e poi sono a disposizione della CGIL. Sangue blu, cieli blu. Ci siamo stancati di spot elettorali, di slide e di balle che vengono raccontate, perché bisogna avere il coraggio di dire la verità. Il governo in pratica proseguendo lui sì come i governi precedenti, quello di Monti, quello di Letta, e non c'è particolare differenza, anzi c'è un peggioramento addirittura quando c'era il governo Berlusconi. Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, tripla Causio che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli. Non c'è bisogno di andare fuori dall'Italia per trovare persone che pur di lavorare sono costrette a lavorare a 2, 3, 4 euro l'ora. Non c'è oggi il sistema degli appalti che ormai riguarda l'impresa privata come l'impresa pubblica, come l'impresa dei servizi. La cooperativa, la sottocooperativa, l'appalto, il subappalto, non è ora di dire basta a questa guerra tra poveri. Allora, ho appena avuto una notizia ferale. No, ho iniziato con la settimana numero 100, ma Vincino, buongiorno Vincino. Ho avuto una notizia ferale in diretta proprio. Ho aperto il giorno. Allora, la Prosesto, che milita in Serie D, la Prosesto, la squadra della mia città, ieri ha vinto 3-2 in gran rimonta a Caravaggio. Abbiamo espugnato il santuario di Caravaggio. Perdevamo 2-0 alla fine del primo tempo, abbiamo vinto 3-2 alla fine, con gol al 90esimo. Sono cose belle del calcio. Ma abbiamo sbagliato una sostituzione. Sai che in Serie D devi far giocare i giovani, troppi giovani, e quindi perderemo a tavolino. Perché? E perché? Perché in Serie D devi far giocare almeno 4 under 21, credo, under 18, e noi l'abbiamo tolto uno e quindi perderemo a tavolino per questa cosa. È una notizia incredibile, cioè. Vincino, non fare così, per me è una notizia brutta. No, ma mi rendo conto. Lo so, vabbè, niente, scusa se ti ho reso partecipe. Anche il Palermo a volte mi fa soffrire a me. Sì, però il Palermo non giocava, invece era Prosesto che ha vinto questa partita che era importante, era quasi decisiva, quasi come la settimana numero 100 per la salvezza, e ora verrà sconfitta Tavoli. La settimana scorsa mi ha fatto giocare con l'Akragas, insomma, dai. È vero, ecco, è la stessa serie dell'Akragas, la Prosesto, però noi siamo al nord e quelli lì sono in Sicilia, al sud, però il concetto è questo. Vabbè, scusa Vincino, ti volevo un po' di affetto per questo dramma scoperto in diretta. Anzi, chiediamo a Cantone che cosa vuol fare. Chiediamo a Cantone, bravo. Facciamo. Ma noi che cosa inauguriamo tra un mese? Inauguriamo Cantone perché dici che Padiglione Expo Italia non sarà prontissimo. Cioè, d'altronde sono passati solo 7 anni dall'annuncio della vittoria dell'Expo. Non è che si possono fare le cose. No, questo è vero. Sono passati 7 anni. Vabbè, ma siamo vicino. Allora, buongiorno intanto. Come stai? Tutto bene? Bene. Allora, c'è da dire, eri in Piazza del Popolo con Landini? Assolutamente no. No. Assolutamente no. Non è che una manifestazione dei nostalgici di Berlusconi, io non ci vado. Ai nostalgici di Berlusconi. Assolutamente sì. No. Stava meglio quando c'era lui e dai. Quindi secondo te Landini, attenzione, seguimi su questo punto, è un nostalgico secondo te Landini? Assolutamente sì. Oh, sai chi la pensa come te? Oggi fa l'intervista a Repubblica, Di Maio. Che ci possiamo fare? Non è che ogni tanto io non l'ho letta a Repubblica ancora stamattina. Dice Landini è un nostalgico, è un nostalgico della falce e martello, lui dice. Ah, va bene, io di Berlusconi, per cui va bene. È un po' una differenza. C'è una piccola differenza. Vabbè, comunque una cosa certo non l'hanno sbagliata, c'era Bella Ciao, c'era Non te regge più di Rino Gaetano, che abbiamo iniziato con questa, e quindi le canzoni, dal punto di vista della scelta delle canzoni, Landini è meraviglioso. Queste sono Il bacio col Rospo, là. No, non Rospo. È una cosa, guarda, no, il Rospo adesso lo guardare quella foto là. Adesso lo dici tu chi è il Rospo, però. No, non lo so chi è il Rospo. Il bacio col Rospo di Landini. Adesso lo dici tu chi è il Rospo. c'è un bacio, Landini ha fatto un bacio un po' freddo con Susanna Camusso, ma non ti riferivi? È diventata un principe. Sulla montagna. È stato un bacio un po' freddo, oggi lo fa notare anche Cofferati sul Corriere della Sera, dice è stato un brutto bacio, non so che cosa voglia dire lui, però Cofferati dov'è andato? Dov'è scappato? E lui è uscito dal PD e sì, quindi... Ma è ancora in Liguria o in Europa o è andato via in giro? Non lo so. Ha fatto un'intervista oggi al Corriere da ex leader CGL, racconta. Tu c'hai tutti i giornali davanti, io ancora no. Sono avvantaggiato, sai, quel piccolo vantaggio di svegliarsi alle 5 del mattino, sono cose che capitano. Comunque non abbiamo aperto ancora il Parlamento, siamo con Vincino, forse arriva tra poco Federico Novella, c'è un piccolo particolare, l'abbiamo messo in scaletta ma non l'avevamo avvisato e quindi, come dire, si sta prendendo quegli attimi di minuto di tempo. Dai, il Parlamento però, apriamolo. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Come detto, siamo qui con Vincino, colui che è infuriato da 3 giorni. Questa ce l'ha qui, la deve proprio dire, no? È infuriato, è arrabbiato, ha fatto un'intervista sul Fatto Quotidiano per dire che Beppe Grillo non si deve più permettere, che Beppe Grillo è un copione, che Beppe Grillo di qui, che Beppe Grillo di su. Perché Vincino, prima di Beppe Grillo, circa 12 ore prima, ha fatto una vignetta paragonando, adesso Vincino non so se dico le parole giuste, paragonando è giusto? No, non paragonando. No. mettendo Renzi. Poio, Renzi, perché c'è chiaramente l'allegoria è là. Renzi alla guida dell'Italia da solo, no? Praticamente quell'altro là era come. No, a bordo di un aereo, però l'Italia è rappresentata come un aereo che. Vabbè, ma è in cammino. Quell'aereo, no? Quell'aereo lì che si sta. Era un l'Italia che vola alto, no? Questo è il punto in questo momento. Sì, no? Però a bordo dell'aereo. Diciamo dappertutto, no? Come dire, no? C'è Renzi che vince sulle moto in Qatar, Renzi che vince con la Ferrari in Malesia, come dire, no? È un'Italia che è ritornata alla vittoria, mentre invece c'è coso che quello là che perde. Salvini perde come un disgraziato. Chi perde? Salvini con la Le Pen non ha guadagnato manco una provincia, una cosa. Ho capito, ma la Le Pen, Salvini mica si candida in Francia. Come no? Alleato con la Le Pen, zero. Vabbè, però vediamo alla questione della vignetta. Tu hai fatto una vignetta rappresentando Renzi a bordo di un aereo, e sapete che di questi tempi gli aerei, ecco, vabbè. E poi Beppe Grillo, 12 ore dopo, ha fatto questa... Un pessimo fotomontaggio. E tu ti sei arrabbiato dicendo che ti ha rubato la battuta, che ha fatto? No, come dire, ho fatto notare che non è che mi sono, cioè questo capita a volte, infatti nell'intervista non è che, cioè io ho fatto, il problema è questo qua, un conto è la satira e un conto è la politica, usare gli strumenti della satira per la volgarità e la locca politica è, come dire, un errore madornale. Su questo sono d'accordo. È l'errore che fa Grillo da sempre. Grillo è un imbecille totale, diciamo, no? Perché allora. No, ma io te lo spiego in due parole. Renzi, in realtà, oggi non ci sarebbe se Grillo non fosse così imbecille. Che quando Bersani gli dice facciamo il governo, Grillo gli doveva dire sì, tu dammi il salario ai disoccupati e io ti appoggio il governo. Via, ci sarebbe stato il governo Bersani, Grillo avrebbe avuto il suo ministero, avrebbe fatto il salario, poi sarebbe caduto Bersani e Grillo sarebbe andato alla grande. No, fortunatamente non è successo questo. Fortunatamente è un imbecille, per cui ci siamo trovati uno giovane, sveglio, liscio e così, che fa le cose tantam un po' male a volte, perché insomma fa un disastro pure lui uno dopo l'altro, però l'Italia, come dire, è qua, è ritornata a vincere con lui. Ecco. Quindi possiamo riassumerla così, perché aspetta, la sto twittando, vediamo se è il tuo pensiero. Vincina 24 Matteo, Grillo è un imbecille totale. Non lo fosse, non avremmo avuto Renzi. No, certo. È giusta la doppia negazione. Non è che ti faccia fare. Non ha voluto il salario dei disoccupati, è lui. Che bastava dire a Bersani, ok, mi dai il salario dei disoccupati e il ministero che lo dà e io ti appoggio. E Bersani felice, di corsa, no? Poi dopo avrebbe fatto questa legge qua, poi dopo qualche mese, trac. Però aspetta, io a quest'ora con l'italiano non so se me la cavo. Se non lo fosse, non avremmo avuto Renzi, è giusta la doppia negazione per dire. Questo non lo so. L'italiano, porca miseria. È un altro italiano, diciamo. È una cosa complicata. Ci vorrebbero quelli che hanno fatto la Costituzione, che erano così bravi con tre parole a raccontare tutto. Diciamo che però Grillo è un imbecille totale, questa è una frase abbastanza chiara. Io la twitto così, la twitto così. Faccio benissimo. Allora, senti chi vuole. Anche i suoi seguaci di conseguenza, non è che. Anche i suoi seguaci. Dice Carnevale, che ci va presso a Palermo. Ti ricordo che io alle ultime elezioni ho votato alla Camera Grillo, Non ci credo. Lascio subito la telefonata qua. No, ti prego. Però al Senato ho votato il PD. Al Senato ho votato il PD. Io sai, una volta ho votato Lotta Continua alla Camera e Liberare al Senato. E allora? E mi rompi le palle perché hai votato Lotta Continua. C'era mio padre che si presentava. Però aspetta, Vincino, forse sa tutto. No, Federico Novella, ti dobbiamo. Eccoci, permesso? Scusa. Sì, senti, ma è vero che non ti abbiamo chiamato venerdì per dirti? Sì, no, vabbè, ma stavo uscendo dal garage, io sono mattiniero, non mi avete buttato giù dal letto, tranquilli. No, no, no, questo non avevamo dubbi, però ti chiediamo scusa, insomma. Ma figurati, ma figurati, è un piacere. Di che parlate? mi sembri in realtà un po' nervoso di questo. Cosa ti sembro? Un po' nervoso in realtà di questa. No, figurati, no, sono stai simulando. Sì, sono nel mio habitat naturale. Allora, abbiamo parlato di Landini. Poi Vincino ha detto una novità, dice che Landini avete parlato, mi viene voglia di tornare a dormire però. No, Landini. Va bene. Abbiamo parlato di Beppe Grillo, che secondo Vincino è un imbecille totale, ecco. Ah, l'ha toccata piano anche stavolta. Va bene. E poi non so, vuoi dire la tua su Landini, che ti piace? Landini? Sì. Ma no, francamente mi piaceva se fossi vissuto nell'Ottocento, mi sarebbe piaciuto. Fine Ottocento, ma Landini non mi sembra. Cioè, Landini secondo me è l'antitesi di Salvini. Può piacere a qualcuno, ma non vincerà mai le elezioni da solo. Sì, poi no. Tra l'altro c'è un mistero, perché il mistero è questo, caro Federico. Vincino sì. Ha detto che Landini ha baciato il rospo, però poi non si è ritratto, non vuole dire chi è questo rospo. Cioè, c'è una foto che circola, Poi cioè, ci sono diversi rospi, qui beccare quello giusto è anche difficile. Ma sabato. Però vabbè, insomma, non c'è questa foto, sai, no, che gira. Ma ha baciato la CGL, ha baciato la CGL, vabbè. Quindi il rospo, vogliamo essere così indelicati per dire che il rospo è la signora Camusso? È stato un po' sessista, effettivamente. È la foto che è sessista, non sono io, è quella foto che la Boldrini direbbe, si dice rospa, non rospo. Esatto, però la foto che è sessista non è male. Poi abbiamo parlato un pochino di Grillo, allora vi devo far sentire la Boschi, con le C e le S che suonano, che parla di Grillo. La pensa come Vincino. Chiudiamo il capitolo rospi, quindi, dai. Ecco, esatto. Ma sinceramente non commento Grillo, perché siamo a livello di sciacallaggio, quindi mi dispiace per lui, sinceramente non mi pare neanche che valga la pena commentare. Sciacallaggio, e poi questa parola è sciacallaggio. Ti piace Vincino, la Boschi? La Boschi mi piace moltissimo. Poi ha lo dice con un modo, con un'eleganza, questo sì, suo fluire, sì, parlare, sì. Tanto gentile e tanto onesta, pare la ministra mia quando lui saluta. È una cosa... siamo al momento poetico, così di prima mattina. Senti sempre la Boschi, allora, che parla della dittatura nel PD. Siccome non c'è un'anarchia e siccome non c'è né una dittatura né però una unanimità, come si fa? C'è un principio per cui a un certo punto decide la maggioranza. Eccolo là, decide la maggioranza, cioè Renzi oggi sulla legge elettorale pare che deciderà lui un po' tutto. Settimana decisiva, quindi. È la settimana decisiva, sì, siamo partiti proprio da questa, la settimana numero 100, abbiamo mandato i Vazzanichi, te lo ricordi? Tu, ok, il prezzo è giusto, Federico. I Vazzanichi, no, come no, spesso è ospite da me, è veramente intramontabile. Dovresti fargli fare una battuta su 100, lo ricordi? Esatto, la ruota di OK il prezzo giusto. Indimenticabile. Ho portato anche la torta per festeggiare oggi, poi faremo una foto, la metteremo sui nostri social. Dai, andiamo a sentire il traffico. Allora siamo anche con Federico Novella, che non abbiamo avvisato e quindi la colpa è nostra, conduttore di Mattino 5 dalle 9, ma tra poco ci dirà tutto. 24 mattino. Solo dirti che sto ascoltando quella signora che ti sostituisce oggi venerdì mattina, e devo dire che la trasmissione è molto, ma molto più interessante di quella che fai tu, più che altro anche per quell'eresia di ospiti pagati dal potere che tutte le mattine parlano ai tuoi microfoni. Non so se vi rendete conto di quanto siete spocchiosi, presuntuosi, so tutto. La gente che continua a blasfemare quando c'era Bersani, e quando c'era Pinocchio, e quando c'era Geppetto. Qua la gente è disperata. Svegliatevi! Svegliatevi! Non certezza della pena. Pene miti, ridicole, vergognose, patteggiamento, rito abbreviato. Ma è ovvio che la gente invochi la pena di morte. Ma è ovvio. Milan, come siamo stati bene ieri mattina senza il tuo cazzeggio? Trasmissione perfetta, senza quei quattro amici di merenda che ti fanno sempre da spalla. Ciao! Caro Alessandro Mira, sei così giocoso che tu addirittura dovresti giocare alla roulette russa, lo sai anche tu, vero? Vabbè, devo dire che un giorno di ferie ha fatto bene a me, ha fatto bene alla radio, Vincino, vedi come... Sì, Federico, infatti sono talmente contento che lo annuncio già adesso, settimana prossima, per tutta la settimana sono in ferie. E no. Quindi, sì, vedi, gli ascoltatori apprezzano, e hanno migliorato, la nostra collega che è qua. È una frangia di estremisti questa che hai fatto sentire. No, è giusto così, accontentare gli ascoltatori. C'è da dire che arriva un messaggio di Eleonora, me la vedo già anche un po' stizzita mentre schiacciava i ditini sul 349-238-6666, un messaggio a Vincino, e chiede: ma Vincino è così un Adone da poter dare del rospo alla Camusso? Assolutamente no. Sei sessista tu. È più brutto, guarda, assolutamente no. Ma è la foto, è là, è il problema drammatico. Noi che lavoriamo con le immagini, immagina la sua forza. Questo è vero, perché lei si è ritratta alla Camusso. Lei si è ritratta con una smorfia, d'altro canto aveva di fronte a sé Landini, pure io mi sarei ritratto con Landini che mi aggredisce. Come mi aggredisce? Mi voleva dare un bacio? Vabbè, ma sai, tu metti il bambino col pedofilo, perché uno scappa. No. Ci sono dei baci che uno scappa, non è che... Quei baci lì fanno scappare. Esattamente, sì. Vabbè. Comunque questo è Landini. Mentre c'è un giornale, forse Repubblica, l'ho letta così: il gran colpo, pensa al gran colpo Silvio Berlusconi, caro Federico Novella, sai cosa vorrebbe fare? Candidarsi a sindaco di Milano. Ah, ma qui ormai se ne sente una diversa ogni giorno, perché io prima avevo sentito Sallusti sindaco di Milano. Sì, ho sentito anch'io questa, Sallusti. Poi ho sentito Toti governatore della Liguria o addirittura del Veneto. Sì, ma non è che li piazzano così, cioè poi c'è gente che li deve votare, cioè li metti come a Risico, Conquisto. Toti è Ligure, quindi non lo so, sarebbero candidature più che altro di... come dire, d'immagine. Questa di Berlusconi sindaco di Milano mi sembra un po' poco credibile, ma perché? È Sarkozy che ringalluzzisce tutto. C'è Sarkozy in Francia che punta all'Eliseo. Più immagine sfigata di Sarkozy. Perché? Perché? Ma così era un disastro immane proprio totale. I francesi però, come dici, di fronte a Hollande dice vabbè, di fronte alla Le Pen poi dice vabbè, riprendiamoci Sarkozy. Ah, dici piuttosto che tenersi Hollande o votare la Le Pen, dico io, meglio l'usato ultra sicuro. Sì. No, però effettivamente forse Berlusconi potrebbe, perché adesso politicamente deve lottare col partito, con tutte le correnti, con Romani che litiga con Brunetta che litiga con tutti questi. Mentre invece forse l'unico colpo d'ala che gli rimane è quello di fare il sindaco a Milano, provare a fare il sindaco. Federico, per te è una follia. Allora, una follia no, se lui decide, magari spinto da quello che è successo in Francia, di prendersi la sua riscossa, potrebbe cominciare da lì. Ma che conflitto di interessi? Ma Federico Novella può dire quello che vuole. Ma va. Che conflitto? Non posso parlare di Berlusconi. No, ma non ho capito. Allora io, perché sono milanista, non posso parlare di Berlusconi. Federico Novella, perché tu sei del Foglio, Ferrara, amico di Berlusconi, non puoi parlare di Berlusconi. Ma là è traslato. Io su Berlusconi ne ho fatte di tutti i colori. Appunto. Vabbè, bippami, Milan. Quando parlo di tu fai beep. Proviamo. Che ne pensi allora, candidatura a sindaco? Ok, ma io credo che Silvio perfetto si possa candidare, sì, perché potrebbe ripartire da lì Silvio beep. Così va bene, dai. Potremmo andare così. Ci vuole un po' da affinare il ritmo. Sarebbe una cagata in mano, dovrebbe dire. Ma non è vero, io dico politicamente Berlusconi, è chiaro che quello che ha fatto è più nel passato rispetto a quello che è nel futuro, però se c'è, secondo me, una... Ma ancora un 15% sul presente, che crack, se ai tempi d'oro non è che aveva sempre, Vabbè. Sai cosa lo spingerebbe poi? Lo spingerebbe il fatto che a Milano il PD è sempre stato un disastro. Anche stavolta non ha un nome da spendersi. Tanto è vero che la volta scorsa vinse Pisapia. Che c'ha il bosco verticale lui a Milano. C'ha il bosco verticale. Il bosco verticale sono dei grattacieli. Vincina è così. No, c'è l'architetto bravissimo. Boeri. Boeri. Che però si è fatto fregare da Pisapia. Per cui, come dire. Vuol dire che era un po' debolino anche lui. Vabbè. Allora, Federico, tu di che cosa ti occupi alle 9, visto che ti abbiamo svegliato in maniera... Oggi, oggi mi occupo di del delitto di Perugia. Non ti ricordi? Ci stavo pensando un momento, ci sono arrivato. Ci occupiamo di questa giustizia italiana che su Perugia ci ha fatto fare una figura. Sì. Barbina. Ecco, ma qui perché figura? Cioè, il sistema giudiziario italiano è fatto così, si può dire giusto e sbagliato. È fatto male. Cioè è fatto male perché per te è impensabile, come per gli americani, che uno venga condannato in primo grado, assolto in appello, poi c'è la Cassazione, allora, condannato. È giusto, secondo me, voglio dire, il segno che se tu vieni condannato non te ne vai subito in galera, naturalmente è un segno di garanzia. A volte ci vai prima. L'imputato. Ah. Il problema qual è? Che uno non è che può rimanere in ballo 8 anni con 35 giudici che emettono 3-4 sentenze diverse, comprese quelle di rinvio per l'omicidio di una persona, perché questa non è giustizia, è un caos senza fine. Ecco, e alla fine hanno condannato uno per concorso in omicidio con chi? Con due persone che non si sa chi sono. Ecco, anche su questo, sì, certo, Giulia Buongiorno, che difende Raffaele Sollecito, ha difeso Raffaele Sollecito, dice è lì l'errore, cioè continuate a pensare che l'errore potrebbe essere lì, cioè Rudy Ghedè evidentemente è stato condannato in omicidio, in concorso con qualcuno, in realtà non era in concorso con nessuno, era omicidio. Sì, esatto, come se a me mi condannano perché ho aiutato a ammazzare qualcuno, ma non si sa chi è che l'ha ammazzato materialmente. Poi io sono contento per Sollecito e Nox perché sono innocenti di loro, però questa giustizia qua, ripeto, non ci fa fare una bella figura nei confronti del mondo. Il maggior amico dei magistrati è Vincino, con cui chiudo. Vincino, esatto. Tu che ne dici? Assolutamente, io dico una cosa, uno... Oddio, temo già. No, non teme, perché non teme? No. Allora, uno, se tu vieni condannato hai diritto di appellarti, però se lo Stato, se tu vieni assolto, cioè il problema è questo qua, lo Stato ha un'occasione per... Ha mezzi in mani per condannare, se non ci riesce basta. Non è che lo Stato può appellarsi 10 volte come se fosse un imputato. Se viene assolto, lo Stato ha perso. Come in Inghilterra e in America, se viene assolto non può essere, se viene assolto basta. Va bene, vi ringrazio. Federico Novella alle 9 con Mattino 5 e Vincino con le sue vignette sul foglio. Alla prossima. 100! C'entra, poco mettiamo la torta online. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, cari italiani, alle 7:17 minuti. Voi scherzate, voi pensate che oggi sia un lunedì come gli altri, e invece... Via pure! 100! Vi ricordate? 100! La ruota della fortuna, la ruota di OK, il prezzo è giusto. È la settimana numero 100! Settimana decisiva, ovviamente, di questa legislatura per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Sarà la settimana numero 100, settimana per la quale ho portato qui una torta in redazione, l'abbiamo fotografata, forse Lorenzo Nespoli l'ha già messa su Twitter, sul profilo 24 Mattino. Peter Bescapè legge il labiale, ricordati, e dice quando è che la mangiamo. Tra poco, finita la trasmissione, è la settimana, ci sono anche le candeline, è 100. Allora, oggi, cari ascoltatori, non parleremo però di questo. Alle 8:15 avremo un grandissimo, per me un grandissimo, colui che mi ha fatto sognare, Arrigo Sacchi, l'uomo che ha rivoluzionato il calcio e che per noi milanisti, noi siamo un covo di milanisti qui a 24 Mattino. Peter Bescapè è milanista, Lorenzo Espoli è milanista, io lo sono, Alessandro Longone è milanista, vabbè, Elisabetta Fusconi è atea, è svizzera, d'altronde cosa volete che le interessi il calcio. Comunque avremo Arrigo Sacchi, ha scritto un libro sulla sua vita, il calcio, sarà nostro ospite alle 8:15. E poi avremo anche l'avvocato Paniz, vi ricordate? Parliamo anche con lui dalle 8:40, insomma, questi gli ospiti. E intanto che facciamo? Andiamo a leggere i giornali, ovviamente. In questo lunedì 30 marzo, so che molti di voi si sono abituati alle mie ferie di venerdì, quindi ve lo dico, anche settimana prossima sarò in ferie tutta settimana per vostra gioia e per mia gioia soprattutto. Ma intanto, in questo lunedì 30 marzo, i titoli, le aperture, il Sole 24 Ore apre sulla spending review, ultimo test per i tagli alla spesa, questo è il titolo di prima pagina, l'obiettivo 6 miliardi di risparmi. Per il Corriere della Sera invece Tunisi, la marcia dei ragazzi, è la marcia di ieri a Tunisi dopo l'attentato al Museo del Bardo. La marcia di Tunisi, la jihad non vincerà, è anche il titolo di Repubblica, che mette insieme anche Iran, Stati Uniti, l'ira di Israele, perché si avvicina un negoziato sull'accordo sul nucleare con Teheran. Il titolo più allarmante invece del giornale è In Bosnia, e cioè in Europa, sventola bandiera nera. È un viaggio di Fausto Biloslavo tra gli estremisti dell'Islam al confine con la Croazia. Per il Messaggero, statali, la riforma tocca i salari, le anticipazioni sulla riforma e i tetti alla retribuzione per la dirigenza della pubblica amministrazione. Per la Stampa invece uno sguardo alla Francia, bocciato Hollande, la sfida futura è tra Sarkozy e Le Pen, torna in auge Sarkozy, maggiore candidato per la destra nel 2017 all'Eliseo. Ma voglio partire da due interviste molto interessanti che trovate sui giornali. La prima parla per la prima volta al Corriere della Sera ed altri giornali occidentali, a quattro giornali, il leader di ChemChina, coloro che vogliono entrare in quota di maggioranza alla Pirelli. È l'alleato Ren Jiangxin, l'alleato che con Marco Tronchetti Provera da 3 anni ha portato avanti un discorso finalizzato poi all'investimento, come lo definisce Ren Jiangxin, l'investimento in Pirelli. È la prima volta che parla, dice: scusate se abbiamo aspettato un po' prima di accettare un colloquio con la stampa, ma la nostra prima preoccupazione è stata evitare il rischio di una controfferta. È l'intervista di Guido Santevecchi a pagina 13 del Corriere della Sera. Ecco, a proposito, come reagirebbe ChemChina se ci fosse una controopa ostile? Noi abbiamo un obiettivo industriale, il nostro budget è messo sul tavolo, però un'offerta senza il sostegno del management di Pirelli e con l'opposizione di Tronchetti Provera non funzionerebbe. Se dovesse esserci un altro investitore finanziario, farebbe bene a unirsi a noi che abbiamo un progetto industriale. Non mi piace parlare di acquisizione di Pirelli, suona aggressivo, questo è un investimento. Pirelli è leader nel settore premium degli pneumatici e delle automobili di qualità, ma è meno forte nelle gomme per mezzi agricoli e industriali, dove invece siamo ben collocati noi. In Cina oggi ci sono 107 automobili per 1000 abitanti, si calcola che saranno più del doppio nel 2024, ci saranno 252 auto ogni 1000 persone. I consumatori cinesi cominciano a guardare sempre più alla qualità. Pirelli con noi ha grandi prospettive di crescita in Cina e in tutta l'Asia. E riguardo a Tronchetti Provera, dice Mr. ChemChina: lo conosco da 3 anni, lo ritengo un maestro, per questo Marco resterà amministratore delegato per i prossimi 5 anni, poi potrà scegliersi il successore. È un uomo responsabile verso il suo paese, i suoi colleghi e verso i dipendenti. C'è anche una battuta sul celebre calendario Pirelli. E qui ChemChina, il Mr. ChemChina, Ren Jiangxin, mostra di non gradire troppo. Tra le tradizioni di Pirelli c'è il famoso calendario, lo conosce? Beh, me lo hanno mostrato a Milano, risponde lui arrossendo un po'. Il contenuto mi ha fatto capire che Marco è un uomo carismatico. però che dire, so che è a tiratura limitata, le ho detto tutto. Insomma, fa capire che nel futuro il calendario Pirelli non dovrebbe avere grandi speranze di sopravvivenza nella nuova Pirelli targata Cina. La seconda intervista invece è a Bernardo Caprotti, è il patron di Esselunga, parla in maniera talmente distillata come delle gocce di un liquido prezioso che ogni tanto quando parla va letta. L'intervista la trovate sul Fatto Quotidiano a pagina 8 e 9, è una lunga intervista, due pagine, Alessandro Ferrucci. Oscar Farinetti è un oracolo bravo a parole, questo è il titolo, perché se la prende Caprotti col fatto che anche loro, Esselunga volevano entrare nell'Expo, ma abbiamo visto che è entrata la COP con Farinetti e siamo stati rifiutati, resta un problema, pensano di creare un evento mondiale ma non ci sono infrastrutture adeguate, assenza di autostrade, lo scalo di Malpensa, un aeroporto inadeguato. E poi accusa un po' Farinetti che va di moda, e certo lui è l'uomo che sa tutto, dice Caprotti, viene qui a Milano e ci insegna cos'è il food, sa tutto di food, vendeva frigoriferi e televisori ma ora è un grande esperto, è l'oracolo, è un chiacchierone formidabile. Allora guardiamo i prezzi, Caprotti è uno molto pragmatico, guardiamo i prezzi, una melanzana da noi costa 2,28 al chilo, da Italy 3,90, il 40% di differenza, per l'insalata riccia è meno 42% da noi. This is money, questi sono soldi. Beh, ma magari Farinetti ha una qualità migliore. Ma va, qua arrivano 400 tir di frutta e verdura al giorno, Esselunga. Vogliamo scherzare? Preferisce confrontarci sui formaggi? Insomma, lui è uno straordinario uomo di comunicazione. Poi riesce a ottenere tutto gratis. A Torino il sindaco Chiamparino gli ha dato la sede della Campari, gratis e per 60 anni. A Verona entra in una struttura splendida con la ristrutturazione a spese della cassa di risparmio della città. Lui deve solo piazzare i suoi quattro scaffali, è un grande. Insomma, Caprotti si toglie qualche sassolino nella scarpa e poi parla un po' della sua vita, lui che ha 90 anni dice vado per i 100, ho fatto tanti peccati, sicuramente le donne in generale, ma non ho mai avuto vendette, ecco, non mi sono mai vendicato per il male ricevuto. Certo, nei rapporti umani avrò fatto male a qualcuno, come imprenditore ho procurato del dolore ai concorrenti, ma questo è un bene necessario. E poi parla della politica. Non sono né di destra né di sinistra, non sono niente. Il mio rapporto con la politica non ne ho. Certo, l'ho finanziata, è l'epoca di Craxi, ho dato moltissimi soldi alla Lega, volevo ribaltare quel tipo di classe dirigente, non ne potevo più, c'era un clima pazzesco, eri obbligato a pagare in continuazione tangenti. Una volta una persona arrivò a chiedermi 100 milioni, ma io dissi soldi neri non ce ne sono e anche se li avessi non glieli darei. Comunque non ho mai pagato, dice Caprotti, che aggiunge sono molto amico di Bersani, persona di grande intelligenza, preparata, pratica. Sono anni che non vedo Berlusconi, persona facilmente leggibile e secondo me comunque non gli hanno consentito di governare. Parla dei figli con i quali ha avuto un lungo contenzioso legale, non posso parlare di questo, non voglio, è difficile, è triste pensare al futuro di Esselunga, perché se mi chiede dei figli non so cosa risponderle, non li vedo, non li sento da troppo tempo. Infine, un'ultima stoccata invece di politica, non ha attaccato nessun politico di oggi, c'è qualcuno che proprio non digerisce e le dico due nomi, Romano Prodi e Rosi Bindi, loro due insieme per me sono il massimo del terribile, ma non le spiego perché, non ho tempo, ho una riunione da fare. Così si conclude l'intervista a Bernardo Caprotti sul Fatto Quotidiano, la trovate. Mentre invece che ti ha fatto questo sindaco? Eccolo qui. Il Giorno. Non paghi le tasse, finisci sul web. La gogna online per i morosi dell'IMU. È una iniziativa in Lunigiana del sindaco di Mulazzo, in provincia di Massa Carrara, Claudio Novoa, che dice qui 300 famiglie su 1200 non pagano l'IMU. Sono tanti, troppi, e allora voglio convincere chi non ha pagato a restaurare un rapporto di collaborazione. Vengano negli uffici, hanno tempo fino al 30 aprile, altrimenti metteremo tutto online. I dati dei morosi a Mulazzo e via di Gogna. Il sindaco dice: lo faccio per far ripristinare un rapporto chiaro con l'amministrazione. Cosa invece abbia scatenato questo maestro o questo professore a Tolentino, in provincia di Macerata, come racconta la stampa, davvero non si sa. Una ragazzina di seconda media finisce all'ospedale a Tolentino, in provincia di Macerata, con due costole fratturate e un ematoma, dopo che l'insegnante di lingua straniera le ha scagliato contro un banco in uno scatto d'ira. Ne parla la stampa: il docente tira un banco, studentessa finisce all'ospedale. L'insegnante si difende anche dicendo che la ragazza aveva un atteggiamento ostile. Ma che è? Cioè, stiamo parlando di una lezione durante l'anno scolastico o di una rissa da saloon? Lo leggete sulla stampa, ma prima della pubblicità vi voglio lasciare con l'articolo che ci fa tenere le mani ben strette sul volante. L'articolo che ci fa pensare di questa giornata è di Erika Della Casa, sul Corriere della Sera. Racconta quello che succede alla Regione Liguria, pagina 15. I consiglieri a casa, ma lo stipendio per due mesi resta. Succede che nella Regione Liguria la legislatura di fatto è finita a marzo, con la fine di marzo, e quindi i politici non possono più prendere nessun tipo di decisione, altrimenti ci sarebbe un ricorso e sarebbero invalidati tutti i provvedimenti. Ma siccome si vota tra un paio di mesi, per un paio di mesi lo stipendio arriverà. Comunque, legislatura finita, non possono lavorare, non possono prendere provvedimenti, non possono fare nulla, ma lo stipendio arriverà a tutti i consiglieri liguri anche per i prossimi due mesi. Consiglieri di fatto decaduti. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il forcone dell'informazione. Addirittura il forcone. Ma vi ricordate il movimento dei forconi? Ma che fine hanno fatto, ragazzi? Ma che cialtronata c'è? In Italia c'è veramente spazio per tutto, eh? Il famoso quarto d'ora di celebrità warholiana. Va bene, allora, la politica, perché lo dice lui stesso, faccio politica pur non facendo un partito, vede Landini che ha conquistato i riflettori in questo weekend, perché ha fatto questa manifestazione in Piazza del Popolo, organizzata col famoso bacio un po' freddo dato da lui e accolto con freddezza appunto da Susanna Camusso, che era lì presente, leader della CGIL, ma non ha detto una sola parola. Oggi Roberto Mania racconta, pagina 15 di Repubblica, che cosa? Beh, le prossime strategie di Landini: associazioni, lavoro autonomo, tutte blu, così Landini organizza la sua coalizione, prenderà forma entro la fine di maggio, è la coalizione sociale. Prima verrà stilata quella che Landini chiama la carta d'identità del movimento, coi valori di riferimento, gli obiettivi da perseguire. Poi sarà creata una sorta di coordinamento dell'alleanza con gli esponenti delle associazioni promotrici. E nel coordinamento non sarà comunque Landini a rappresentare la FIOM, per evitare polemiche sul doppio ruolo. Questa struttura di governo sarà poi replicata nei vari territori, insomma un'organizzazione leggera, ma pur sempre un'organizzazione. C'è da dire che però arrivano anche le prime critiche. Si era parlato di un avvicinamento al 5 Stelle, sentite cosa risponde Luigi Di Maio, intervistato da Annalisa Cuzzocrea a pagina 15, sotto quest'articolo sulla strategia landiniana. Ecco Di Maio: noi collaboriamo con chi può essere utile, ma non vedo come possa esserlo Maurizio Landini, che non ha voti in Parlamento e rappresenta un mondo da cui siamo totalmente distanti. E arriva il gelo dunque di Di Maio, che aggiunge: per far approvare il reddito di cittadinanza servono i numeri, sono tutti benvenuti, ma Landini non ne ha. In più non si è capito nulla di quello che vuol fare, è un nostalgico, ha come punto di riferimento vecchie ideologie, la falce e il martello, l'esaltazione del sindacato come mediazione necessaria tra Stato e cittadini. Piuttosto, sulla nostra proposta di legge spero che le opposizioni in Parlamento si muovano. Io ho firmato la petizione di Libera che chiede una legge in 100 giorni, ne rimangono 84, cioè la legge sul reddito minimo, reddito di cittadinanza. E Di Maio dunque boccia la linea Landini, e staremo a vedere. Chi invece è con Landini è Sergio Cofferati, intervistato dal Fatto Quotidiano da Giampiero Calapà a pagina 2. Un Cofferati che è uscito dal PD e dice: ora la CGIL lavori tutta al fianco di Landini. Troverei davvero molto utile una partecipazione alla realizzazione di questa idea da parte della CGIL in toto. E parla uno che è stato leader della CGIL. Noi faremo un'associazione politico-culturale che aiuterà Landini. Abbiamo allo studio diverse ipotesi sul nome dell'associazione, non posso svelarlo, altrimenti i compagni mi mangiano vivo. E dunque Cofferati si schiera con Landini. Vabbè, ma la politica oggi farà registrare anche un passo avanti, probabilmente sulla legge elettorale. Staremo a vedere, settimana numero 100, lo abbiamo detto, oggi c'è la direzione del PD, Renzi vuole la legge elettorale entro maggio, prima delle regionali. Oggi parlerà il partito, la linea è interpretabile in alcuni articoli di retroscena, per esempio a pagina 14 del Corriere della Sera, Italicum, Renzi andrà alla conta dicendo: i giovani sono con me, è una frecciatona ai Bersani, ai D'Alema, la solita divisione all'interno del partito. Renzi è convinto che la minoranza interna sia molto più divisa di quanto non appaia, con molti giovani che non hanno voglia di seguire le sirene dei vari D'Alema e Bersani. Tanto che racconta Repubblica con Francesco Bei, a pagina 14, qualcuno potrebbe considerarla una sorta di esca. Per il Premier invece è l'ultima offerta fatta alla minoranza del PD che dovrebbe separarsi dai padri ma non sa come farlo, ovvero abbandonare al loro destino Bersani, D'Alema e costruire un'interlocuzione diretta col segretario. Siamo alla vigilia, insomma, dell'ultimo tentativo di rottamazione da parte di Renzi nei confronti della vecchia guardia del PD. Staremo a vederlo oggi, certamente nella direzione del partito qualcosa si capirà. Invece nel centrodestra è abbastanza confusa la situazione sotto il cielo. Qualcuno narra addirittura di un Berlusconi pronto a scendere in campo con le regionali da solo, con i soliti Forza Silvio di cui tanto si vocifera, rottamare il partito e fare Forza Silvio. E qualcuno che fa notare: ma così si va alla disfatta? E vabbè, quasi come fosse una strategia elettorale di prendere una bella scoppola alle elezioni in modo da poter dire: ok, così azzero tutto e rilancio. E secondo il Corriere della Sera, leggete Marco Cremonesi a pagina 17, c'è e si profila all'orizzonte una clamorosa novità per Berlusconi, che è questa: l'idea di diventare sindaco di Milano. La partita di Milano per Forza Italia è quell'idea di candidare Silvio. Nel centrodestra l'idea affascina. Soprattutto hanno fatto drizzare le orecchie alcune delle cose dette sabato dall'ex premier. A Milano tutto è iniziato e da Milano tutto potrebbe ripartire, ha detto Berlusconi. E quindi il grande punto di domanda è questo. Berlusconi vuole candidarsi a sindaco a Milano nel 2016? Questa è la domanda che oggi politicamente è più interessante riguardo al centrodestra e proviene dalle anticipazioni dall'articolo di Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Due invece anticipazioni sono importanti sullo stesso tema, sempre sul Corriere della Sera e sul Sole 24 Ore, riguardano la spending review. Sapete che c'è un nuovo commissario dopo Carlo Cottarelli, è stato nominato Yoram Gutgeld, che da sempre è un consigliere economico di Renzi ed è un deputato del Partito Democratico. Spending review per ferrovie, TIR e bus, questo è il titolo del Corriere. Antonella Baccaro racconta che si punta a ottenere 10 miliardi e si guarda soprattutto ai trasferimenti alle imprese, il famoso dossier fatto dal professor Giavazzi. I trasferimenti alle imprese, in particolare quelli a ferrovie, sussidi all'autotrasporto, gli sprechi del trasporto pubblico locale. Secondo dati della Ragioneria Generale, I trasferimenti, la principale destinazione di trasferimenti alle imprese sono le infrastrutture, 4,7 miliardi, il tutto il 27%, in particolare ferroviarie per programmi di ammodernamento e interventi sull'alta velocità, poi trasferimenti ai trasporti, 4,1 miliardi, in parte all'autotrasporto, 1,9 miliardi, in parte per obblighi tariffari del settore ferroviario, 1,9 miliardi. Qui si vuole recuperare, secondo il Corriere. Ma a proposito di spending review e l'apertura del Sole, perché? Perché domani è una giornata, lo dice Mauro Meazza, non lo dico io. Buongiorno, buongiorno Mauro. Importante. Ecco. Importante. Decisiva no. Decisiva vediamo. Importante perché, no, come stavi giustamente dicendo, bisogna trovare dei soldi e sì. Io ho due parecchi, e si sa. E sempre si devono, no, non sei andato a ritirarli venerdì che sei mancato dalla trasmissione per andare a ritirare i tuoi due urini. No, tanto venerdì sono mancato, non è una bella frase. Là dove li avevi, no, ma è mancato in senso che non eri presente, infatti qui, c'era. C'era Anna che ti sostituiva degnamente. Ma talmente degnamente che settimana prossima, te lo preannuncio, sono in ferie tutta settimana e quindi ci sarà. Ma sei veramente debosciato, come dici tu, però. Tutte queste ferie adesso ti danno la testa. Allora, intanto che sei in ferie, guarda, cerca di ritirare quello che hai perché servono complessivamente, ballano complessivamente 22 miliardi. Però stai tranquillo, non tutti in un anno. Intanto domani bisogna. Non ne chiediamo tutti a te, no, facciamo un po' per uno. Però guarda, entro domani bisognerebbe decidere tra l'altro sui famosi esuberi delle province. Sai che noi stiamo abolendo le province e siamo alla settimana decisiva numero 100, ecco, numero bisognerebbe 100. Capire però che facciamo del personale, perché il personale sta lì, lì bisognerebbe anche tirar fuori più o meno un miliardo. Poi ci stanno i soldi risparmi dalla sanità, fanno più o meno 4 miliardi, e poi ci stanno c'è il patto di stabilità con i comuni, un altro 1,2 miliardi, e su tutto vigila, tutto vede la clausola di salvaguardia. Sai cos'è la clausola di salvaguardia? Quella che se scatta son dolori. Esatto, è quella che io ti prometto di risparmiare, ma se non ce la faccio paghi tu. Esatto. Funziona un po' così, ed è lì pronta che ci guarda, vale complessivamente, cioè su più anni, 16 miliardi. Cioè, se lo Stato non trova i soldi, tipo, che ne so, una bella accisa sulla benzina, l'aumentiamo. Un ritocchino dell'IVA, anzi un paio, come sono già. Già decisi, ma ci sono altre cose. Domani è una giornata, questa volta sì, decisiva per la fattura elettronica, perché i fornitori della pubblica amministrazione, come abbiamo ricordato più volte anche negli ultimi giorni su Sole 24 Ore, devono passare questa fattura elettronica, se no non ti pago. La cosa mi sembra un argomento abbastanza forte. Torniamo sul tema con gli errori più frequenti che ci sono stati in questi mesi di primo rodaggio, anche per indicare appunto chi si trova da domani a gestire la novità, a cosa deve stare attento. E poi hai visto che ci sono un sacco di commissari in Italia, non di commissari tecnici, non commissari di polizia, proprio commissari alle emergenze. Però Antonello Cherchi è andato un po', ha cercato di contarli e ovviamente non ci è riuscito, ma perché nessuno sa quanti siano. Abbiamo stimato che il numero sia nell'ordine di qualche centinaio. Tu sei commissario da qualche parte, no, magari non ti abbiamo contato. Però avremo alle 8:15 un ex commissario tecnico della Nazionale, Arrigo Sacchi, ospite. Infatti ho visto sull'annuncio dei programmi di Radio 24. Questo è l'unico commissario che noi possiamo offrire. No, beh, ma quelli lì non erano nel nostro conto. Noi parlavamo di commissari nominati dalla politica e magari poi restano lì anche 35 anni. Ma era per gestire un'emergenza, quindi si sa che ci vuole il suo tempo. Ti spiega tutto oggi Antonello Cherchi sul Sole 24 Ore. Alessandro Milan, la roulette russa dell'informazione. Ebbene sì. Cara ascoltatrice, ho riso anch'io mentre ho detto al nostro croupier settimana scorsa che faceva giocare tutti alla roulette russa. Mentre lo dicevo, sa quelle cose che mentre dici ti rendi conto che stai dicendo una minchiata, però ormai era uscita così. Allora, ci sono i dettagli che sono incredibilmente e freddamente macabri del resoconto di quello che è successo a bordo del Germanwings, che si è schiantato perché il copilota Andreas Lubitz lo ha fatto volutamente schiantare sulle Alpi francesi. Ebbene, su tutti i giornali c'è il racconto. Intanto la cosa che a me ha sconvolto è il fatto che ad oggi non sia stato ancora identificato un solo cadavere, ma solo sono stati analizzati e isolati i DNA, e neanche di tutti. Questo vi lascio immaginare che cosa possa significare della scena che hanno trovato i soccorritori. Ebbene, Andreas, prendi i comandi, poi il disastro. Le parole della scatola nera le trovate su tutti i giornali. Beh, intanto quella frase enigmatica, quella risposta enigmatica che letta a posteriori è davvero inquietante, quando il comandante dice: beh, comincia a preparare al computer di bordo la procedura di avvicinamento e atterraggio a Düsseldorf. Cioè atterraggio a Düsseldorf, e il copilota Andreas Lubitz che risponde: speriamo. Eh no? Capite che letta a posteriori, cioè l'atterraggio, speriamo. Poi a un certo punto il comandante va in bagno alla toilette e dice: prendi tu il comando. E lì gli attimi alle 10.35, quando bussa, e poi: Andreas, apri per favore questa porta. Poi sempre di più: apri per l'amor di Dio, apri questa maledetta porta, apri questa fottuta porta. È un crescendo, ovviamente, quando il comandante capisce che dall'altra parte c'è una volontà autodistruttiva. Si sentono i suoni, terrain, pull up è il suono dell'allarme in cabina, suolo in vista, cabra, cabra, cioè il computer che dice: state avvicinando al suolo. E poi alla fine c'è l'urto da parte di un'ala nei confronti di una roccia, le urla della gente e poi il silenzio totale. Ovviamente sono il racconto della morte in diretta di 149 persone, e la trovate, ripeto, su tutti i giornali. Vogliamo andare un po' all'estero per capire che oggi è una giornata importante. Domani scade il termine dei negoziati per la verità, e oggi quindi è una giornata fondamentale a Losanna in Svizzera sul possibile accordo tra Stati Uniti e Iran sul nucleare. Iran mai così vicini all'accordo sul nucleare. Maurizio Molinari racconta dalla Stampa, e c'è tempo fino alla mezzanotte di domani per chiudere, e ci sono tutti i punti in discussione: il breakout time, la durata dell'accordo, il tema sull'uranio arricchito, il plutonio, la ricerca e lo sviluppo, gli aspetti militari, le sanzioni. La Stampa fa l'articolo forse più interessante con Maurizio Molinari a raccontare quali sono sul tappeto e sul tavolo delle trattative i punti più importanti con Israele, con il premier riconfermato Bibi Netanyahu, che lancia questo allarme mondiale dicendo: è pericoloso un accordo con il nucleare, con l'Iran sul nucleare. Ma sono davvero giorni importanti, e staremo a vedere come va a finire tra oggi e domani. Come sono giorni sempre importanti per i trattati e i rapporti tra l'Unione Europea e la Grecia. Vi segnalo l'articolo più interessante da questo punto di vista, è sul Corriere della Sera, racconta il Corriere della Sera sulla Grecia con Danilo Taino, che in pratica la Grecia ha presentato che cosa? Il proprio il rapporto sulle riforme da fare, lo ha fatto però con una chiavetta, quindi un supporto un pochino poco ufficiale, e presentando le riforme in greco, cioè in lingua greca. Questo nel trattato con l'Unione Europea. Qualcuno fa notare che potrebbe essere un modo per prendere ulteriore tempo. In realtà anche Repubblica parla di negoziati ai tempi supplementari tra Europa e Grecia. Ma ecco l'articolo, tra l'altro, del Corriere di Maria Serena Natale, non di Danilo Tano. Maria Serena Natale racconta le promesse fatte sulla chiavetta e in greco. Tra le misure proposte ad Atene c'è la tassa del 50% sui beni dei politici, l'innalzamento del carico fiscale fino al 50% per i redditi più alti, l'aumento dell'IVA nelle isole turistiche, quindi cari italiani, se andate quest'estate nelle isole immaginate che tutto costi di più, l'imposta sull'alcol, la stretta sul traffico di carburante e sigarette. Insomma, mi sembra che tutte queste proposte siano un grande aumento di tasse. Questo è per riassumere le strategie greche, un grande aumento di tasse. Grazie, grazie, grazie, con questi tre grazie sempre più grandi dal punto di vista grafico, la Gazzetta dello Sport saluta la grandissima giornata di sport per l'Italia, perché la Ferrari ha trionfato in Malesia con Vettel e Valentino Rossi ha trionfato in Qatar nel moto mondiale, quindi c'è anche la pagina che è ampiamente tricolore, verde, bianca e rossa, per i trionfi italiani sia in Malesia che in Qatar. Ma vabbè, eccoci qua. Tra l'altro, a proposito di sport, noi ricordo avremo alle 8:15 Arrigo Sacchi, grande ex allenatore, anche ex CT della Nazionale di Calcio, ha scritto un libro e chiacchiererà un po' con noi del calcio. Ma siamo al momento decisivo, al momento della carta costa, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Ricordate sempre a mio insindacabile giudizio Paolo Di Stefano. Una pagina intera sulla clausura ai tempi del web. Basta! Basta i dibattiti sulle suore di clausura dopo che sono andati ad affossare il Papa. Basta! La clausura, come è cambiata ai tempi del web. Ma chi se ne frega! Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Devozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:19 minuti in punto. Ieri è stata una grandissima giornata domenica per lo sport italiano, no? La Ferrari che vince in Malesia, e questa è una novità, il trionfo di Valentino Rossi in Qatar nel moto mondiale, questa è meno una novità, ma due bellissime notizie per lo sport italiano. Vogliamo anche noi oggi parlare di sport, e vogliamo parlare di calcio in apertura del nostro programma, non lo facciamo solitamente, ma oggi abbiamo un personaggio che, lo dichiaro subito, non ne faccio mistero, lo sapete, ha regalato a me, milanista e tra l'altro diciottenne all'epoca in cui venne al Milan, le pagine in assoluto più belle della storia del calcio. Voi capite che andare a San Siro e vedere il Milan vincere contro chiunque, vedere Gullit, Van Basten, Rijkaard, Franco Baresi e cito solo i più famosi, beh, è qualcosa che rimane per sempre. Lui è Arrigo Sacchi, buongiorno e benvenuto Sacchi. Buongiorno a voi. Sacchi, che è in libreria con un libro, si intitola Calcio Totale, la mia vita raccontata a Guido Conti, edito da Mondadori. Sacchi racconta la vita da Fusignano ai vertici del calcio mondiale, passando dal Parma al Milan e la Nazionale di Calcio, per citare le squadre più famose. Senta Sacchi, lei è considerato da tutti un rivoluzionario del mondo del calcio, ma in che cosa l'ha rivoluzionato? A questo lo dovrà chiedere agli altri. Io ho cercato solo di esprimermi come nelle cose in cui credevo, e purtroppo ho avuto la sfortuna di credere in cose diverse da quello che in generale si credevano in Italia, quindi andare controcorrente degli abissi si fa una fatica dell'altro mondo, specialmente in un paese molto conservatore e chiuso come quello italiano. Lei addirittura nel libro racconta quando arrivò al Milan: ricordiamoci che in Italia bruciarono Giordano Bruno, io ero quasi considerato un eretico, ma ce lo può far capire con un'immagine in che cosa lei arrivò e fu considerato un eretico? Beh, ma in tutto, intanto io partivo pensando che il calcio fosse uno sport di squadra in un paese che ha sempre pensato, allenato molte volte, raccontato e scritto come uno sport individuale. L'hai mai sentito dire quando una squadra non segna che bisogna giocare meglio? No, si dice sempre che bisogna comprare un attaccante, sempre cercato. Quindi ho pensato sempre che fosse, come i padri fondatori l'avevano creato, uno sport di squadra e offensivo, in un paese che invece è sempre stato considerato uno sport individuale e difensivo. Ho sempre pensato al calcio come uno sport globale, mentre in Italia è sempre stato considerato uno sport specialistico. Il marcatore doveva marcare, il difensore doveva difendere, il portiere doveva stare in porta, l'attaccante doveva stare vicino alla porta avversaria. Ho sempre pensato che per essere una squadra ci dovesse essere un collocamento giusto per migliorare la connessione tecnica. Quindi ho pensato, insomma, tante cose. Ho sempre pensato che prima del giocatore ci fosse la persona, col suo impegno, con la sua motivazione alla ricerca dell'eccellenza. Ho sempre pensato che prima del talento ci fosse la funzionalità al progetto di un tecnico. Sarebbe come in un film, ho sempre pensato anche che l'allenatore lo vedevo come il regista o il sceneggiatore di un film, e che dove fosse importante ingaggiare giocatori che prima di tutto fossero funzionali al progetto tecnico, poi complementari tra di loro, poi che fossero dei grandi professionisti con delle persone generose che avessero tutto e alla fine che avessero talento, quando in questo paese si è sempre invertito le cose. Ho sempre pensato che giocando Zora il riferimento principale doveva essere il compagno alla fine è l'avversario. Ma quindi infatti lei ha sempre detto che il gioco, il collettivo viene prima dei singoli, ma addirittura ribaltando la questione vuol dire che avere un fuoriclasse, un Maradona, un Messi, un Cristiano Ronaldo potrebbe anche diventare un problema? No, diventa un problema se gioca per sé, altrimenti il gioco migliora tutti quanti, ma in forme diverse, tutti se ne beneficiano in forme diverse, chi è più bravo se ne beneficia sempre di più. Come le immagini, una squadra che ha Maradona e non gli porta palla. Non fa niente, no, cioè, certo, Maradona contro tutti non può. Noi pensavamo che bisognava sperimentare, che il gioco fosse la cosa più importante per migliorare il singolo. Il mio obiettivo era migliorare i giocatori. I giocatori del Milan, bravissimi tutti, fenomeni tutti, non avevano mai vinto nessuno di loro prima di venire al Milan. E prima di quella rivoluzione. Senta, ma la sua consacrazione in realtà, lei lo scrive nel libro, avvenne per il grande calcio prima nel Parma che il grande salto nel Milan. Che effetto le fa vedere il Parma oggi praticamente fallito in queste condizioni? Mi dispiace tantissimo, però le preciso una cosa, io ero assolutamente un signor nessuno, non avevo pedigree, non avevo un effettolone, quindi la cosa che piaceva era il tipo di gioco che giocavo, che allenassi il Frusignano, l'Alfonsine, il Bellaria, il Rimini, la Primavera del Cesena o della Fiorentina. Questo è stato veramente il gioco, la qualità del gioco, l'emozione che dai, la bellezza che dai ai tifosi, poi moltiplica anche i risultati, sembrano sempre di più, rimangono nella mente delle persone. C'era Van Basten che mi chiedeva: ma perché noi dobbiamo divertire, convincere e vincere, quando gli altri basta vincere? Perché c'è una vittoria fine a se stesso, rimane negli almanacchi, il giorno dopo l'hai già dimenticata. Quando invece hai alleviato per due ore e dato delle emozioni a delle persone che per due ore sono uscite dalle loro problematiche quotidiane, te ne saranno riconoscenti per tutta la vita. E lui mi rispondeva: ma qui facciamo troppo fatica, lavoriamo troppo. Ho mai saputo che si ottenga tanto facendo poco. Bisognava passare attraverso questo. Lei col Milan ha vinto tutto, era l'epopea di Berlusconi, anche Berlusconi che aveva molti soldi ovviamente, però lei racconta soprattutto in questo libro l'ansia, lo stress, la fatica che accompagnava ogni vittoria. Ma davvero una vittoria può essere così deleteria da portare ad aspetti più negativi che a ricordi felici? No, la vittoria mi ripagava di tutte le fatiche prima, delle tensioni, degli stress, delle notti insonni, dei dubbi, delle critiche a volte ingenerose, di tutte le difficoltà che ci sono. Lei era andato a scuola e immagini che ogni tre giorni aveva degli esami sempre importanti, esami che si conoscevano in tutta Italia e forse anche nel mondo. E come viveva lei? Certo, con l'ansia, ma lei è arrivato a questo a, in qualche modo possiamo dire, a un certo punto della sua carriera? No, guardi, io già da Rimini firmavo contratti sempre di un anno, perché l'anno dopo volevo smettere. Così è stato col Parma, così è stato col Milan, ero tutto contento, perché se per caso non fosse andato bene non avevano spese. E per me, guardi, il calcio, io non racconto solo questo, però racconto la gioia di un bambino, il sogno di un bambino, ma dopo la gioia di insegnare, la bellezza dell'insegnamento, di aver realizzato un'opera. Quando uno fa un lavoro, qualsiasi tipo di lavoro, lo fa con tanta passione, con tanto amore, cresce la creatività e il piacere. Se poi la cosa si realizza, c'è una pienezza interiore, un'armonia interiore che non solo ti dà una grande soddisfazione, ma anche a livello umano c'è una crescita. E io decisi decisamente di smettere definitivamente quando a Parma, dopo una vittoria, peraltro. Dopo una vittoria, dopo il contratto più ricco della mia carriera, vinsi e non sentì assolutamente nulla. Allora capì che era l'ora di smettere. Cioè, quella vittoria non le aveva lasciato niente, una vittoria in campionato, niente. Io telefonai subito a mia moglie e dissi: vengo a casa e non ci torno più. Perché capì che avevo dato tutto, si era svuotato dal di dentro. Ho dato tanto, ho dato tutto quello che potevo al calcio, con tutte le energie, le forze, le intelligenze che potevo avere, le intuizioni, le genialità che potevo avere, ho dato tutto, ma devo dire che lo rifarei completamente, perché dal beh, immagino, insomma, stato ricambiato con una gioia, con una vita di gioia, di emozioni e di soddisfazione. Senta, c'è anche il capitolo dedicato alla nazionale. Lei racconta come si può arrivare in una finale dei mondiali, perdere i rigori con il Brasile, quindi arrivare davvero a un passo dalla vittoria al mondiale, eppure essere accolto da molti, come dire, è stato un disastro, un fallimento. E lei racconta della cultura sportiva in Italia che manca, perché arrivare secondi al mondiale ci può stare, eppure tutti dissero: lei ha fallito. Abbiamo fatto tutti poco per aiutare le persone, i tifosi a crescere, e ancora adesso vediamo quello che è successo l'altro giorno con Antonio Conte, veramente veramente vergognoso. Purtroppo noi disconosciamo in questo paese, non tutti per l'amor di Dio, ma una buona parte, il merito. E il merito, oltre ad essere un valore, è una selezione democratica. E disconoscendo il merito, è evidente che ci portiamo a disconoscere la bellezza, l'estetica. Per me una vittoria senza merito non era una vittoria. E quindi in un paese che invece anche rubando si deve vincere. E questo non è positivo, così non si cresce. Siamo rimasti ancora, anzi è stato un peggioramento. Un peggioramento. Ma perché dice quello che è successo di vergognoso con Conte? Riguarda gli oriundi? Lei si riferisce a quello? Ma se ci fosse stato Messi tra gli oriundi, secondo lei ci sarebbe stato tutto quello can-can? Ah no, Messi lo metteremmo in campo, certamente. Siamo dei vigliacchi, polemici, ma abbiamo fatto tutti poco. I giornalisti, molti di loro non hanno adempiuto il loro dovere di saper raccontare, di sapere migliorare il lettore. Tutti cercano sempre di calcare l'onda dell'opportunismo, del populismo, e così non si va avanti. Ma quello che manca, ripeto, è una conoscenza del calcio. Non abbiamo sviluppato la conoscenza del calcio, siamo arretrati come lo siamo quasi tutti gli anni. Ma quello è il momento in cui ha subito più pressione, l'ha fatto più male, il momento in cui... Quello ho capito che non si era nulla da fare. Io ho cercato per tanto tempo per far capire. Lei immagini che il Milan è stato considerato da France Football, quel Milan dell'89 è stata considerata la migliore squadra del dopoguerra. Le immagini che World Soccer, la Bibbia del calcio mondiale, l'ha classificata al quarto posto, ma le prime tre sono tre nazionali, ed è il primo club del mondo, come la miglior squadra, la più bella squadra del mondo. In Italia ci sono sempre state dei partiti. Io ero visto, come diceva lei prima, come un eretico, in quanto attentavo secondo loro alla loro leadership. I giornalisti, molti specialmente i più vecchi, erano ancora legati al calcio all'italiana. Dopo due anni che ero a Milan, il più grande scrittore sportivo italiano, che era Brera, mi venne a chiedere chi avrebbe marcato Maradona. Mia moglie, che non ha mai visto una partita, disse: ma tu non giochi a zona? Va bene, può darsi che mi sia espresso male, però non c'è peggior cieco di chi non vuol sentire, o peggior sordo di chi non vuol cioè non vuol vedere, sì. Non lo so, quello che non vuol sentire. L'ultima domanda è questa, Sacchi. Lei è finito di recente, come sa, nella bufera. C'è stata una polemica per una sua dichiarazione quando ha detto ci sono troppi giovani di colore nel settore giovanile. L'hanno accusata di razzismo, ma anche a livello mondiale, non solo in Italia. Perché i falsi moralisti, i falsi perbenisti che cercano di lavarsi le loro coscienze ci sono sempre, gli opportunisti. È stata una mascalzonata di uno che dà un discorso. Intanto la maggior parte di loro non hanno sentito la registrazione, uno dei pochi l'ha sentito, un certo Lotti, mi pare, Losi, che sono 24 ore, ha detto sentendo la registrazione è impossibile pensare. Inoltre io purtroppo non sono più un bambino, sono 40 anni che conduco una vita pubblica. Se i suoi colleghi che per 40 anni non se ne erano accorti che era un razzista, evidentemente erano stati poco bravi. Si è assistito a un'altra situazione tipica italiana, dove per arrivare al successo non si prende la strada del lavoro, dell'applicazione, dello studio, dell'attenzione, ma si prende la strada dell'arrivismo. Quindi questo ha estrapolato una frase da un discorso totalmente diverso, io parlavo in generale e l'ho scritto sul libro bene. Però chi è un mascalzone, chi perde la dignità, è un miserabile tutto l'anno. Quando mi hanno detto come ti senti, male per quello che ha messo in giro mentore, no? Ha messo in giro tutto questo, è male per tutti quelli che si sono codati senza aver letto. Hanno dimostrato superficialità e anche in questo caso cercare sempre di fare bella figura sulle spalle degli altri. Mi deve togliere in conclusione un segreto, perché quando vinceva spesso si diceva vabbè è il culo di Sacchi quando vinceva quel Milan. Questa è la generosità di questo paese, quando tu fai una cosa diversa. Però un pochino di fortuna serve, Lei lo diceva anche spesso, serve anche ogni tanto un pochino di, non diceva fortuna. Per accontentare tutti quanti. La fortuna secondo me esiste da sempre, solo che non siamo preparati per poterla raggiungere. Come io credo che ci si realizzi non solo attraverso la vittoria, ma attraverso anche l'impegno e il lavoro. Io ho perso un mondiale ai rigori, ma sapevo che aveva vinto giustamente il Brasile perché aveva giocato meglio, e quindi inoltre bisogna dire avevo la certezza, essendo molto esigente con me stesso lo sono anche con gli altri, e quindi io so giudicare ciò che vale e ciò che non vale. E avevo la certezza che quella squadra era andata oltre le proprie possibilità, ecco perché non avevo capito le critiche, ma lì era la caccia Sacchi, e che non doveva annullare gli altri come pensavano molti giornalisti, e che quindi e pensi che il Corriere dello Sport Stadio scrisse 3 pagine di errori che avevo commesso. Sì. Ho detto per fortuna che non siamo arrivati ultimi, altrimenti avrebbe dovuto scrivere almeno 10 pagine. In ogni caso, insomma, se volete approfondire tutta la vita, una vita certamente straordinaria che grazie al calcio l'ha portato in tutti i campi del mondo, e anche a primeggiare, a vincere, a perdere in alcuni casi, come avviene nello sport, io nel ringraziarla Rigo Sacchi rinnovo il libro, se volete, Calcio Totale, la mia vita raccontata a Guido Conti, edito da Mondadori, ovviamente lo trovate in libreria. Grazie davvero da Rigo Sacchi. Dopo la pubblicità invece avremo con noi l'avvocato Maurizio Paniz, ex parlamentare del PDL, parliamo un po' con lui, state con noi. Allora, sono le 8:40 minuti in punto, ben ritrovati. Beh, qualcuno mi scrive dopo aver sentito Rigo Sacchi, ci voleva uno juventino doc come Maurizio Paniz. Non è che l'ho chiamato per contrapporlo, però avvocato Paniz, buongiorno. Buongiorno. Buona giornata, prima... se parliamo di Juve va benissimo. No, prima avevamo Sacchi, Arrigo Sacchi, poco prima di lei. Giusto appunto. E allora qualcuno dice finalmente uno juventino per controbilanciare. Siamo proprio un popolo di tifosi vergognosi, mamma mia. No, ragazzi. Vergognosi, come? Il tifo è una cosa bellissima, se esercitato entro determinati limiti è una cosa stupenda. Ma no, ma questo assolutamente sì, non rinego il tifo, però insomma, dovevamo bilanciare. No, io ho due questioni che le vorrei chiedere. La prima è la questione da avvocato, lasciamo stare da parlamentare, eccetera. Ci sono tante polemiche dopo che è successo l'assoluzione, che va bene, lei avrà seguito su tutti i giornali, no? Di Raffaele Sollecito e Amanda Knox, perché a dire non si capisce la giustizia italiana è una vergogna, questa almeno è l'accusa che arriva dagli Stati Uniti, soprattutto a dire non si capisce questo balletto di assoluzioni e poi di condanne. Vabbè, il sistema lo conosciamo in Italia, ma è davvero così una vergogna, lei che è un avvocato penalista? No, io penso invece che questa sia sì da un lato una sconfitta grande per la giustizia italiana, ma dall'altro lato una grande vittoria per la giustizia italiana. Guardi che aver trovato... Così è democristiano però, una vittoria, una sconfitta, no. Capisce che poi gli americani non capiscono. Gliela spiego molto bene, è una sconfitta per i tempi, 8 anni, sì, ne sono tanti, per i 4 anni che sono stati passati in carcere da persone che poi vengono riconosciute innocenti rispetto al delitto dei quali erano accusati. È una sconfitta per il fatto che non si è trovato chi concorreva con Rudy Gedè nell'omicidio di Meredith. Sì. È una sconfitta perché alla fine la giustizia si deve inchinare di fronte all'insufficienza dei risultati probatori per arrivare a un certo risultato, ma è anche una grande vittoria, la grande vittoria di magistrati che hanno avuto il coraggio di applicare un principio che nella nostra Costituzione è sacro, il principio per il quale una condanna può essere pronunciata solo se è sicura al di là di ogni ragionevole dubbio. E questo principio applicato... E questo vale anche in America, dovrebbe valere anche in America. Ma guarda, in America è molto più sommaria, lo dico con molta franchezza, noi non dobbiamo vergognarci rispetto all'America della nostra giustizia. Io difendo, guardi che lo faccio io che faccio l'avvocato, è il colmo, ma difendo veramente volentieri la magistratura italiana che ha saputo arrivare ad affermare un principio di questo genere. E io penso a quanto sia stato difficile per tutti i magistrati che hanno giudicato questo caso, sia quelli che hanno condannato sia quelli che hanno assolto. Ma lei pensa al dramma intimo che ha un magistrato che deve condannare a 25 anni di carcere, ragazzi, come no, soprattutto meno di 30 anni. Processo indiziario, è chiaro. Ecco, quindi è chiaro che c'è un grande sforzo emotivo dietro, dietro questo sforzo emotivo però c'è l'applicazione alla fine di un principio di grande garanzia, e questo principio di grande garanzia onora secondo me il popolo italiano. No, quando ha detto prima io del colmo da avvocato difendo i magistrati, pensavo dicesse da berlusconiano difendo i magistrati, ma lei non... No, possiamo anche dire questo, nel senso che io non rinnego quello che è stato il mio passato e non rinnego quelli che sono stati i miei ideali, che sono quelli di allora come quelli di oggi, però io non ho mai parlato una volta male dei magistrati perché so quanto è difficile fare il magistrato. Questo è vero, però l'altro motivo per cui l'ho chiamata, so che lei per il momento vuole parlare poco di questa vicenda, ma raccontano che lei faccia l'avvocato di tutti i consiglieri, soprattutto in Friuli. Lei è friulano? No, io sono bellunese. Ah, ecco, bellunese. Vabbè, ho sbagliato regione. Però insomma, allora che, e allora che, sì, che ci fa in Friuli Venezia Giulia a difendere quelli che fanno il ricorso contro il vitalizio? Ma per la verità prima l'ho fatto per i consiglieri, per gli ex consiglieri regionali del Veneto. Ah, bene, quindi e poi si è espanso, E poi mi hanno chiesto di collaborare anche per gli ex consiglieri del Friuli Venezia Giulia e per la verità di altre due regioni, ma di questo non voglio proprio parlare. Il problema è semplice, però non le do nessuna notizia sul merito della vicenda. Confermo che mi sto occupando di questa cosa, confermo che si tratta di ricorsi esclusivamente in diritto, quindi io non sto a discutere se moralmente sono leciti. Ah, no, lei fa l'avvocato, Io faccio il mio lavoro di avvocato, lo faccio in diritto, ma le tesi le voglio esporre prima davanti ai magistrati, perché questo secondo me è il principio corretto. All'interno del processo si trattano le questioni di diritto e poi una volta che sono state esaminate dai giudici non ho nessun problema a spiegarle all'opinione. Certo, però attenzione, cioè due regioni già e poi altre due l'hanno già contattato, cioè rischia di diventare l'avvocato dei consiglieri regionali, degli ex consiglieri regionali. C'è un'altra regione che ha già avviato il ricorso, la Lombardia, io non me ne sono assolutamente occupato, è già in corso di trattazione questo procedimento, quindi vuol dire che le questioni in diritto si sono poste in varie regioni italiane. È un tema molto delicato ma molto bello in diritto. Ma tirerà fuori, questo almeno ce lo può dire, la questione dei diritti acquisiti in quanto diritti acquisiti? Questo è uno dei profili, il grande problema è quello del cambiamento delle regole in corso. quando una partita, abbiamo iniziato parlando di calcio, quando una partita è iniziata non si possono cambiare le regole. Le regole si cambiano o prima o dopo. Una persona deve sapere qual è il quadro normativo che trova davanti a sé nel momento in cui accetta di svolgere una determinata attività. Non gliela possono cambiare in corsa. È un principio che qualche volta in Italia si cerca di introdurre, ma è profondamente sbagliato. Le regole si cambiano o prima o dopo. Sono sbagliate? Benissimo, sì, le cambiamo. Sì, per... E chi entra in, entra per il dopo futuro, che sono state cambiate, ne subisce le relative conseguenze. Però non si possono cambiare a chi è andato a prendere, a maturare quel vitalizio con regole diverse. Alla classe a questa affermazione segue sempre la questione di molti che dicono: è come agli italiani le regole sono state cambiate, guardi gli esodati, guardi le riforme. Hanno ragione gli italiani. Hanno ragione gli italiani. Non per questo bisogna dar torto a chi ha ragione, cioè i consiglieri. Hanno ragione gli italiani, nel senso che non è possibile cambiare le regole. Gli esodati hanno sofferto una situazione che è drammatica e profondamente sbagliata, veramente profondamente sbagliata. Ed è un grave errore dello Stato quando si mette nella condizione di trattare il suo popolo in modo così negativo, così sbagliato. Io credo che gli italiani fanno bene a reagire contrastando uno Stato che cambia le regole in corsa. Mm-hmm. E quindi insomma hanno ragione gli italiani. Cosa dobbiamo fare, avvocato Panis? Non fanno votare, lei non... votare bene. Ah, va bene, votare bene. È il sistema che ha il cittadino italiano. Non hanno però gli esodati un avvocato Panitz che può portare avanti. Ma forse qualcuno ce l'hanno e qualcuno ha fatto anche dei ricorsi e qualcuno li ha anche vinti bene, perché effettivamente ci sono delle situazioni che sono assolutamente abnormi e si creano ogni tanto nello Stato delle situazioni che sono inaccettabili davvero. Certo, bisogna trovare il professionista che è in grado di capirle e di farle, e trovare anche il magistrato sereno, bravo, preparato, che sia in grado di dare ragione quando la ragione. Vabbè, quando è che ci svelerà in conclusione quali sono le altre due regioni per le quali sta facendo ricorso? Come ex quando consulente? Lo presenterò. Nord, quando centro, sud? Nord e centro. Nord. Quando lo presenterò? Una del nord, diciamo il Piemonte, cosa rimane del nord? Dopo, guardi, quando dopo... lo presento poi svelo, ma sono abituato così, perché credo che ci sia un rispetto di fondo nei confronti del... Ma poi ricorso dove, mi perdoni? Alla Corte Costituzionale? Allora, guardi, io li ho introdotti al TAR, in questo al momento, TAR. Tribunale Amministrativo Regionale, però c'è una tematica abbastanza delicata sul tema, perché qualcuno ritiene che ci siano argomentazioni buone per ricorrere direttamente alla Corte dei Conti e qualcun altro addirittura alla giurisdizione ordinaria. In Italia le regole non sono sempre così facili dal punto di vista della competenza e della giurisdizione, quindi c'è una tematica abbastanza delicata da questo punto per di ora, vista per ora al TAR. Da affrontarla. Per ora al TAR. Intanto vedremo, la ringrazio avvocato, ovviamente sempre Forza sempre Milan, si ricordi? No, c'è un errore di fondo, si ricordi? No. Sempre Forza Juve, non deve sbagliare l'errore di fondo, addirittura contesta sul punto l'avvocato Panitz. Magica, cioè, sempre Forza Juve, naturalmente con il massimo del rispetto per tutte le altre squadre che sono la forza e il bello del campionato italiano. Va bene, grazie avvocato Panitz, il traffico e poi i nostri lavoratori. Ora sono le 8:50 minuti, è lunedì, sono le maledizioni delle 100 giornate, 600 giornate, 100 settimane decisive. La maledizione della centesima settimana decisiva è che il nostro lavoratore di oggi non risponde. Ma come? Fa sciopero, è in vacanza, non lavora. Ma che dobbiamo fare, ragazzi? Ma non lo so. E allora che dobbiamo fare? Niente, alle 8:50 minuti il nostro lavoratore di oggi era Luigi, ma non risponde. Quindi se non risponde evidentemente sta lavorando. Questa è la classica, risposta che mi viene da dire. Ci sono molte, critiche sulla questione dei vitalizi, di Panitz. Vabbè, ma Panitz fa l'avvocato, ma che deve fare? Fa l'avvocato e difende quindi quello che fanno. Quelli che anche coloro che hanno maturato il vitalizio e pensano che avere il vitalizio sia una cosa meritata, e quindi i diritti acquisiti non si toccano, come direbbe il nostro Mario Capanna, il grande Mario Capanna. E quindi Panitz ha presentato i ricorsi per due regioni, i consiglieri regionali di due regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e presto lo farà anche per difendere i diritti acquisiti dei consiglieri regionali di altre due regioni, una del nord e sarà il Piemonte, visto che la Lombardia ci ha detto che non è, e l'altra del sud, e lo scopriremo prima o poi. Comunque vogliamo sentire qualche ascoltatore. L'800240024. Claudio da Roma ci chiama. Claudio, buongiorno. Buongiorno dottor Milano. Che c'è? No, niente, sentivo le esternazioni dell'avvocato Panizzi, sì. Tanto ha sempre delle logiche come con la nipotina di Mubarak. Però quel famoso discorso. Certo. Non lo riapriamo. No, volevo soltanto dire, io sono un futuro pensionato, cioè devo essere pensionato già un paio d'anni fa, grazie alla nostra amica. Mi trovo ad allungare la pena, sì. Ma la cosa drammatica è quando la Corte Costituzionale, formata da tutti i membri che guadagnano cifre astronomiche, no? Poi viene chiamato a decidere se è costituzionale o incostituzionale i vitalizi dei delinquenti che stanno in Parlamento, le somme, ecco, i vitalizi dei consiglieri regionali. Sì, per la verità, in Parlamento, come sa, devono decidere da loro, cioè l'autonomia giudiziaria. Però poi ci sono l'esternazione dei Mirabelli, che è quell'altro Cassese, sì, quelli sono tutti emeriti. Pareri. In conclusione, gli stessi membri della Corte Costituzionale decidono se la loro pensione è costituzionale o incostituzionale. Cioè se la fanno e se la decidono. È una cosa eccezionale, guardi, è veramente da ho capito, ma Panitz dice se c'è un diritto e gli italiani, come magari lei che si sente violato. Panitz dice che lei si sente probabilmente violato nel diritto, e lei ha ragione. Certo. E quindi Panitz dice io che devo... Con questa ragione che ci faccio? Ha detto voti bene. Ha votato bene. Se la gente inizia a aprire gli occhi, io volevo fare un ultimo rispetto alla metafora di Grillo e del pilota, no? Lui dice il pilota è Renzi. Sì. E io fuori la porta c'era l'altro pilota che urlava, no? Che poi lì non è morto. Però dice apri questa porta. E Peppe Grillo si doveva mettere proprio dietro quella porta. Abbiamo fatto una metafora meravigliosa. Non so se ho reso il senso. Sì, ha reso il senso. Fare quello che bussava da dietro. Va bene, la ringrazio Claudio. Andiamo a Pavia da Daniele. Tormilan, buongiorno. Sì. Una curiosità da ignorante della materia, ma qua sul caso Ghedè, Sollecito e compagnia cantante, c'è una persona in carcere che dice di aver ammazzato un'altra persona in concorso con qualcuno. Beh, dice, non è che lo ammette. Beh, è stato condannato, quindi... Diverso, sì, è stato condannato. Ok, quindi... Ma la domanda a questo signore... Chi erano le persone con cui tu stavi? È stata mai fatta? Guardi, sono ignorante come lei, non lo so. Al processo immagino di sì, forse non ha risposto, non lo so. Daniele, mi fa una domanda, non ho seguito, perché lei dice Rudy Ghedè dovrebbe parlare, dire... Sì, voglio dire, è un testimone. Ma forse dice, forse banalmente Rudy Ghedè dice io sono innocente. Quindi se sono innocente, poi è stato condannato, ma la sua versione sarà io sono innocente e quindi non so, ma non so neanche con chi, visto che mi ritengo innocente. Comunque Daniele, approfondiremo, che le devo dire, le farò sapere. Intanto ci fermiamo qui, ringrazio Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Il nostro Carmelo Lauricella insieme all'Alpino si è alternato in regia. Lunedì è così, doppia regia, siamo sempre più importanti. Seguiteci, andate anche sul sito radio24.it e trovate tutte le novità nella sezione della nostra trasmissione 24 Mattino. A domani 6:30. 24 Mattino.